Ciò che abbiamo un'attrezzatura di quelle radio getta. Non lo sapevo. No, io stavo guardando adesso perché ci sono dei film che mi interessano e mi riguardo. Ma oggi mi sono divertito moltissimo in radio perché c'è una propagazione da paura, veramente. Si sentono anche ripetitori lì in 10 metri. La 27 è uno spettacolo, veramente. Prima c'erano francesi, inglesi e così via. Adesso ci sono zeppo di tedeschi, dalla 26 fino alla 27.9 quasi. Centinaia e centinaia di tedeschi, tutto in FM. Forse così da noi la CB. Lo so, no, io non ho controllato niente, anche perché sono col baracchino. HF non ne ho più, le antenne sono staccate, VU non ne ho più, non c'ho più niente, già fatto, l'ho già detto, quindi non sto seguendo niente. È nulla, sono qua alle 10, c'era un bellissimo question, mi ha fatto piacere scambiare due chiacchiere, c'era Fabrizio, Marco, Gianni, Roberto, un po' di gente. Adesso chiaramente siamo un po' staccati per andare a cena, ma sicuramente dopo altre due chiacchiere ce le facciamo. Molto bene, beh, il periodo suo è la propagazione, adesso c'è. Sì, per la cronaca, dunque Coppa Italia, Milano, Milan-Torino. Per essere esatti, inizia alle 20.30, quindi tra 20 minuti all'incirca. Sì, io sto parlando di 27, Claudio, non sto parlando di HF che li sentiamo tutti i giorni. No, proprio di CB in 27. Io pensavo che fosse una cosa europea, l'abbandono della 27, invece mi pare che è italiana, perché in Germania è zeppo, cioè tutti i canali occupati, compreso questo che sotto ci sono i tedeschi, magari ci stanno pure ascoltando. Sicuramente, non lo so. Va bene sto baracchino, sto usando un Airbex 120 canali con le bande laterali 4082, boh, sarà degli anni 70 anche questo, però è veicolare, potenza intorno ai quasi 20 watt modulati, perché questo c'ha 15 watt. Sì, sta andando bene mi sembra, io sto andando con un watt e mezzo, sto andando scendendo, tra poco mi sentirei con 100 milli. Già pagata. No, stai andando benissimo Gianfranco, non so quanto ti sto arrivando io, però ti ascolto magnificamente bene. Attenzione Brecco, copiate Antonio. Già la copiamo, 9.40 mi sembra, a occhiometro, 9.40, avanti Bombol. K, buonasera a tutti, buonasera Claudio, buonasera anche tu, Gianfranco. Ciao Alto, buonasera, 9.40 ti sto arrivando, Gianfranco. Beh sì, in pratica sì, 9.40 perché questo arriva a 9.60, però devi essere attaccato all'antenna, questo è 9.60, quindi è un segnale notevole. K, va bene, no, questo va bene baracchino, questo è l'Airbag 6.482, veicolare, 120 canali con le bande laterali, non ha l'FM, però c'ha l'LCB o SBM, va molto molto bene. Microfono sempre MB più 5. Avanti bombolo e non gridare, per esempio viene debattato. c'ho quell'abitudine lì, c'ho. E cosa vuoi fare? Vado sempre a Roma a caldo, baro. Sempre viene debattato, Bari. se ti abitui a parlare normale, così vedi anch'io lo tuo stesso microfono, parlo 20-30 cm, normale, spinge bene, questa radio non ha neanche Mickey Gay, nulla, quindi ho il microfono a metà, i toni ce li ho a 2, cioè a 1, va bene così. KK. Freddo Gianfra, freddo cane, un casino, porca miseria, anzi oggi diciamo che in linea di massima non ha piovuto, quindi abbiamo un po' respirato, siamo riusciti a cacciare la testa fuori di casa, però c'è molto freddo, a te Gianfra. Sì, c'è parecchio freddo, ne sta arrivando altro, ma speriamo che ci dia la possibilità almeno di far andare via un po' d'acqua, perché qua è tutto allagato, ce n'è veramente un pantano sta diventando. Sì, è micidiale. Anche adesso che stai parlando, qua, a destra e a sinistra, da 26 a 26, cioè, da paura, proprio, da paura. Era parecchio che non vedevo in 27, in questo periodo qua, una propagazione di livelli e di chiarezza di radio formidabile. Guarda, in FM i tedeschi sono come se fossero qua, una comprensibilità assoluta, veramente. Fa piacere, una bella soddisfazione. Io sono, forse perché abbiamo orari diversi, io sono da un po' che non li sento, e sarei voluto fare una piccola chiacchierata per vedere se ci riesco ad arrivarci. Lo sai il tedesco? Io li dico zio, da già comprende. Se dici patate magari forse capiscono anche meglio, vero Claudio? E poi i tedeschi sono amanti degli italiani, basta dirgli cartoffe, pasta asciutta e tricaballà che già capiscono tutto. Sì, se non gli dico cartoffa già andavano a te. Però non commettere l'errore di invitarli a pranzo, perché sennò ti fanno fuori tutto quello che c'è, perché sono delle buone forchette, tutti quanti. Stavo parlando anche di cose, di apparati, e c'erano su 5, stavo parlando del 7004, e proprio, sono tutti in FM però, ne ho incrociato solo, giù ce n'era una in SSB, in 26, però era dall'Irlanda, credo, dall'Irlanda, arrivava a micidiale. Già arrivano bene. No, ti ripeto, io ho fatto un po' di radio primo pomeriggio, poi ho staccato, ho ripreso poc'anzi, un'oretta. Bellissimo quel show, bello, tranquillo, ordinato, e poi sono andato a portare il cane, ma ti ripeto, ho visto che c'era un po' di propagazione, ho sentito che c'era un po' di propagazione. Ho scarrellato un po' col 40 canali con questo, però di altro non ho fatto, Gianfra, la verità. Sì, guarda, in questo momento ci ho segnati, saranno almeno fra un chilometro, per lo spazio che ho, almeno una cinquantina di canali tutti occupati, e di norma dovrebbero essere quasi tutti tedeschi. Figura di due. Avanti, Mongoli. Sto uscendo bene con questo baracchino, sì? La voglia che tocca, è una bomba e occa. Tu bene, mi senti un ghiaccio baracchino? Ah, benissimo, questo c'ha una ricezione favolosa. È peccato che è un veicolare che io non uso, perché adesso l'ho appoggiato sul DAC, ho spento quello e sto usando un po' questo, dai. Scappa. No, io non mi avvicino mai al microfono perché ce l'ho sotto il mobile e quindi faccio l'orecchio in oggi e il microfono sopra il mobile. Però la cosa bella, sai che cosa è? Che posso modulare senza le mani, metto il lock e vai. Yuhu! Quello è bello, io perché non sopporto i microfoni da palmo? Perché no, una rottura di scatole, capito? Vai Gianfra, sto cercando un tappino e non riesco a trovarlo, riprendi. Comunque quando arriva, adesso sto aspettando un po' perché c'è ancora molto casino, una restrizione eccetera, quindi intorno a febbraio, primi di marzo, se mi arriva l'apparato che sto prendendo te lo voglio prestare per vedere se riesco a farti innamorare. Tieni presente che da quello che hanno detto sembrerebbe che anche in 27 sia una scheggia, sia veramente micidiale. È grande quanto, che te posso dire, quanto è grande, quanto 4 pacchetti di sigarette, dai, messi tutti in fila, è grosso quanto uno, quindi lo puoi mettere anche in tasca. Vabbè, però sappi che io te l'ho già spiegato, Gianfra, io per carità di Dio, non voglio avere polemiche con nessuno, sono coerente con me stesso, a me la parte amatoriale non mi interessa più e quindi non voglio ripetere le stesse cose, ho tolto tutto, adesso in attesa del tempo bello, tolgo anche i dipoli che sono rimasti e faccio solo la 27, basta, non mi occupo più di niente. Non c'ho passione, non me ne frega niente, capito Gianfranco? Quindi non voglio investire manco una lira nella parte amatoriale, perché ce l'avevo, avevo anche delle belle cose, mi ho venduto tutto e mi sto facendo, con quei soldi realizzati dalle radio, mi sto creando la parte vintage che mi è sempre piaciuta, sto acquistando delle radio pian pianino quando le trovo e sto facendo una cosa così, basta, non mi interessa più niente Gianfranco, la verità. La licenza rimane perché ce l'ho e basta, no. Però attività io non mi interessa. Ma io sto parlando di 27, non sto parlando di quello che hai detto tu, capito? Quindi è giusto per farti apprezzare un qualcosa di molto spinto, moderno, però che lo puoi usare tranquillamente in 27, anche perché come potenza massima c'ha 10 watt. Cioè 10 watt e per di più la batteria, è una cosa proprio uscita da pochissimo, molto bello. Purtroppo se lo vuoi provare col microfono solo a palmo, perché a meno che non te ne presto uno, ma per provarlo qualche giorno già ti fa bene. Poi mi dice cosa ne pensi, però un'opinione, così vedi come le differenze tra vecchio e nuovo, tutto lì, per una curiosità anche mia. Ok, poi la gamma amatoriale non c'entra niente, ce l'ha, ma non ti obbliga nessuno a usarla. Avanti bombolo! Scappa! E che radio vuoi, chissà? Allora, a batteria stiamo parlando. Sì, sono radio portatili particolari, non è una roba un po'... come si può dire? Un po'... molto molto molto molto tecnologica, ne ho già due della stessa generazione, ti permettono non solo di fare radio ma anche di vedere la radio, un nuovo concetto che c'è in tutte le radio ultramoderne, che non solo tu ti parli alla radio ma vedi anche la radio, nel senso che vedi tutto quello che succede in una grossa porzione di banda, capito? Oramai molti li stanno facendo così, poi c'è quella che è meglio, c'è quella che è peggio, però hanno tutti uno schermo digitale, touchscreen anche, che permette di vedere queste cose, quindi mentre tu sei su un canale ne stai controllando anche altri 50, 100, 200, dipende dal tipo di radio. Oramai, e così è. E così è. Claudio, fra poco c'hai 7 minuti. 7 minuti? E adesso andiamo intanto a cenare, perché sono già le 20:30 e quindi andiamo a cenare, poi vedremo un pochettino. Ma forse a te il Milano non piace, no? E carichi tu! Tedeschi. Ma non vuoi che ci andrà a fermi, mi intendere? Ma guarda che stanno facendo questo come noi poi, Stavo ascoltando, stavamo parlando di anche che loro sono tutti chiusi, che è un disastro anche in Germania, e quindi rifisaffa, tra poco dicono che noi siamo bene, perché in effetti insomma siamo tra i più, tra virgolette, ovviamente tra più fortunati forse attualmente, speriamo che duri almeno questa fortuna. Speriamo bene. Oi, non se ne comprendi più nulla, no? È tutto quanto da burotto. Infatti, è un casotto. In Germania stanno picchiando duro, Di lì sono proprio chiusi nel senso che hanno già detto che fino credo a metà febbraio, sono tutto febbraio, rimane tutto chiuso, se continuano questi contagi. Oi, speriamo bene. 5 minuti, Claudio. Cappa. Claudio, mi sei? Sì, sì, perdonatemi, ma mi ero già quasi spostato per andare dall'altra parte. Quindi, per il momento vi saluto, grazie delle due chiacchiere. Ciao Antonio, ciao Gianfranco, chiunque fosse qua sul 10. In ascolto, momentaneamente io mi allontano, lascio tutto acceso, vado a mangiare un boccone e poi rientro qua per fare magari due chiacchiere se c'è qualcuno e dare anche un sarago lì e un pagello al televisore. Ok, così ci guardiamo questa partita. Un abbraccio a tutti, buona cena e buona digestione per chi ha già cenato. Ciao ciao. Eia, ciao ciao Clara, ce la risentiamo. E ci dico a chi tua chizia, per si intendere. Ciao Claudio, alle prossime, buona cena. Ciao Giafra, grazie altrettanto anche a voi. Scappa, allontanando ti stai Giafra. Tra poco devo andare via anch'io, perché anch'io dovrò guardare una cosa che mi interessa in TV. Niente, provaci, guarda, ci sono tutti i canali pieni, non so se tu li senti, da me arrivano in maniera favolosa, proprio segnali abbastanza grossi. E ciao, vedi, roba tua prova. Cappa, ma il segnale è aumentato? Ma di un pochino. Cappa, è importante che esca bene. Sì, sì, almeno quello sì. Quello già sta andando bene. Cappa. E boh, adesso non si sentono più questi qua. Già ci sono, ma non li senti, forse sono sul fondo. Adesso sono bassi, ma negli altri canali ci sono segnali alti. Dopo di che? Hai avuto una spazzolata, vedi come te. Ebbè, abusivi. Uè, ebbè! Ciao a tutti, sono entrato a salutare che sto facendo tanta roba. Ho sentito solo Gianfranco e Antonio Bombolo. Sono di passaggio. Noi ci siamo. Oh Marco, buonasera. Io ciao a tutti. Dai, ben sentiti, non so che c'è qua, è così, dai. In FM è tutto a posto, com'è? Gira? Sì, gira, è che ci sono. Oggi abbiamo l'invasione dei tedeschi in FM, è tutto pieno, su tutti i canali della 27. Se fosse qua come là, guarda, ci sarebbe da chiacchierare con centinaia di persone. Sì, a metà serata ho buttato l'orecchio anche sui canali un po' alti. Gli inglesi, i tedeschi qua sulla 27, gli inglesi nella banda loro inglese, e quasi, molti in FM, poi qualche banda laterale, eccetera. Va bene, io vi saluto, dai, devo trasire, ok? Anzi, devo uscire, non trasire vuol dire entrare. Ciao Gianfranco, ciao Antonio, ci sentiamo quando potrò. Ciao a tutti, ciao. Cappa, ciao Marco, dai, ce la risentiamo. Ciao Marco, buona serata. Cappa, Cappa, lui. Prima intendeva che si mangia cazzo, papà non vi so più, bebo. Come no, già ci sono, sei tu che non li senti. Va bene, anch'io scappo, Anto, buona serata, alle prossime. Cappa, non mica che segnalino, ok, dai, ci sentiamo. Ciao, comunque tutti gli altri 23 canali, anzi tutti gli altri 40 canali sono tutti pieni, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Ciao, alle prossime. Ciao. Luca, ma dove sei? In AM? Sì, in AM, sorello. Capo, la bomba in FM, noi. Ah, vedi, si vede i tedeschi. Ah, cartoffe. Sì, mangia cartoffa. Capi. Miau. C'è ancora la mascherina, va, ci facciamo appena arrivare. Dalle buccio la maschera, anticazzo, dalle buccio. Cazzucci, ho avuto un mal di testa di merda, va. Sono stordito. Come te mai? Se ci soffro, tu. Fai migrania. Abbiamo tanto che chiamare a Succi, bene pure a me. Sembra che mi viene tu a rettumi, no? Solo le migrania mi viene. Non so, ogni tanto mi viene che chiamare a Succi, mi tocca pigliare mezza occhi. Se non piglio l'oggi, no, non sto bene. Sì, no, io la prendo una ne prendo. Ma se no prendo qui tasche. Ci faccio, ci mettevo un bel. Stordito quel peso, vuoi. Ma rimangiare con tu cazzo a coso, a colpi di cric a testa. Per carità. Oi oi oi. Buono solo. Che solamente che si volte. Ma pure a me ogni tanto mi succede questa cosa, mi succede. E poi a me mi fa cazzo, fa proprio metto il forno in verde, mamma mia, come fa sto gamato, cazzo. Cosa è? Detto che ho mangiato un pezzo di pollo in verde con i piselli, mi ha messo lo stomaco sotto sopra. Lo bollo con i piselli. E in verde non l'hai mangiato. Ah, non mi biate così, a me mi biate a roccio. Se tu me lo presenti, no, non te lo mangio. A me piace arrosto, mi piace. No, manco in coso, come li faceva la cosa mala stasera. No, a me piace arrosto. Ehi, va bene, tu, aspetta un attimino, allora, questo qua... vabbè, a me ma così la vita non mi piace, però... Io, come lo faccio io in verde, esce veramente buono. Ciappa. Boh, questi sono i gusti, questi sono i gusti. A me proprio, non mi ti vara. Questo dove ce l'hai? Mandacci. Manda... Aspetta. Manda D. Manda... No, è manda... Manda D. No, scusa, aspetta. Ce l'ho in banda A... Allora, D A... Non lo vedo, Antonca. Non lo vedo, aspetta. Io non dico... Impossibile lo avate il cubietto subito un dia. No, non può essere. È sbagliato. Allora, guarda, se vai. Tu vai, ce l'hai 45. E certo che ce l'ho. E vai. Aspetta, un attimino. Sali qua. Anto. Oh, Anto ce l'hai. Anto. Anto. Hola. Ehi, usati questa qua che esce bene, tu, quella dell'altra, Questa radio. Ehi, cappa. Vorrei disegnare i parafossi, chissà. A voglia. Cappa. Non capisco perché... Questa cazzo di radio è 45. Eppure me lo dava sempre lì, me lo dava. Che strano. Che cosa vuoi dire, Non è intorno ai 26-45. No, 45 è 27-465. Oh, allora c'è qualcosa di strano. Ma in questo o nell'altro? Nell'altro. Nell'altro qual è? Quell'Intec. Ma io ho impostato nei c'è qualche variazione, ma già lo so che cosa bisogna fare. Devo fare così, ottenere questo premuto, e cosa continua la lampeggiare? Proviamo un 13, buono 13. Ok. Ma sicuramente è qua. Ma pure che non. Cosa hai detto? Banda E, così è. A me mi dà banda E, sì. Hai visto che l'ho trovato? Hai visto. Allora, ho dovuto prendere schiacciare il pulsante rosso, lampeggia veloce il baracchino e andare, ho dovuto cambiare l'impostazione, capito? Adesso già va. Sì, io mi dà tu. Anche prima mi dà via 26, mi dà via. Sbagliato. Cappa, no, adesso già schirreggia. Poi ti metto che è l'8007, no, 87 con le 24. Cappa. E non andava. Vedo che andava. Vediamo un po' cos'è. Tu, guarda che ti ho mandato un messaggio. Non si capisce qua, la sferatucisa. Capito tu? Aspetta, stavo guardando una cosa, si è da controllo. Oh Lu, ci sei? Ehi, altro, me stavo levando la roba, non l'ho sentito, adesso mi sto finendo il letto. Che siamo le pozioni, non mi basta nessuno. Lo so, come si mancherebbe che ci dico, vero? A domani, o giovedì? Domani, Giovedì, dopo domani. Mazzazziga. Ecco qua. Hola! Ho comprato da cosa, da... Quanti si chiama? Nero Spiga. Cazzo che c'ho drama, non cazzo è un demonio. Funziona benissimo che c'ho abitatore. Tu stavi dicendo che sono andato a prendere l'acqua al cane? Dai, Nora Mara. Ho comprato quella roba che carica un poco. Questo trapanino da Nero Spiga. Se va bene a me. Cannonata, mi ha fatto certi lavori, va bene, l'ho usato già un po' di volte, ora ferriga un poco, e funziona bene, ti dico la verità, quello rosso. Abitatore? Eia, sta tutti gli inserti, c'ha, fare un giocattolo, Barry, invece funziona bene. Aspetta, vado una foto. Appa. Ci sono tra trappano, abitatore, a moneta più di 300 euro. Sì, sì, lo so. E vabbè, io mi sono dovuto accontentare di bigliacchi su coso. Cavolo, funziona bene. Gli ho messo l'inserto con la chiave a bussola. Mi ha tenuto i bulloni anche. Poi ho fatto un altro lavoro, ho piazzato il baracchino. Ho fatto un sacco di lavori, ho fatto. Cavolo, è buono, va bene. Non sarà tutto chi ci ugoso, però funziona. Vabbè, io poi non li uso, me li conservo, capito? Li metto quando muoio, non trovo dentro la bara. Cappa. Ma quello non l'ho sverginata la moletta. E c'è quella vecchia, vabbè, guarda che c'è la marina adesso. La sua. Ma in realtà mi sarà rotta. E questa qua prima o poi la userò, ma non mi serve adesso. Vabbè, ce la uso tra qua, no, c'ho ancora quello vecchio. Finché bucavo lo lì, poi si è cattosato da farlo lui su nu. Infatti me lo so comprato perché l'altro mi stava iniziando a fare odore di bruciato. Cappa, fatto bene. Beh, via. Cioè, va bene. Dico come io. Penso me la prendo da sopra, ero lì. Mi ero un cavallo, ho stendo un dram, ero un gancarelli, mi sono dovuto mettere a passeggiare. Un po' di freddo a Fendig. Ma stanotte il rentrante era tinteggio. Io già mi pongo i nonghi ci state troppo bene qua. Soprattutto qua su sul cernaio ci sarà a Dio. Ti credo. Cappa, qua c'è tutto in legno, si sta bene davvero, si sta bene. No, vabbè, guarda, che a me è stato bene, si sta bene, certo io lascio la finestra aperta, perché che se no a fuoco, mamma mia, no? Che abba? Ha detto se poi deve sapere di quell'accendina, no? Che sento, che ero qui tutto quanto legno. Però, la verità, per noi due questa casa va alla grande, va. Certo, se abbiamo fatto un bambino piccolo non va più bene, però per noi due io sono. Cioè non mi interessa cambiare casa, mi la verità. Sto troppo bene qua. Tanto, se uno sta bene, così. Se uno sta bene. Bisogna vedere l'estate. Se si sta bene, se è troppo caldo. Stamani che sta bene, d'estate si sta benissimo. Proprio la porta a finestra. E ti posso dire che di notte ti va anche coprire che c'è freddo. D'estate. Io va a brucernaio e non che andavano a te. Vabbè, lui dice, ma attenta nei bizzoni. Non entra nei bizzoni, me la mia e non che. Quindi i distributini, compreso, va. Io che entra anche pizzona di niente, mi da brucernaio, occhio. Vai, ma c'è un manganello e no che preoccupa a capo. Ma non mettono non che bisogna niente, non si preoccupa. E qua mi rispettano. Se no è buon qualche candelotto, vedi che è a fine. Lo so. Basta, basta. Vabbè, se ti interessa te andare d'accordo, tu sei uno, io ci sono un bel. Ma in chi ve la sono, poi ti rimane in ingresso. Sono bastardi, bisogna stare attenti. Un attimo mio, attimo. Ma dico di uno, poi ti ripiccare i denti in alto. E ti fa cani lungavo. Vabbè, non ti passa a guardo, però dovete sempre che luce abiti, ma abiti però. Bombola bombola della Iana, ma macchi giù. Sono bastardi, la tua luce è meglio di me, sono bastardi. Ah, ma chi vuole entrare? No, non mi rispettano, anche perché io gli do rispetto. Chi è che vuole entrare? Avanti. Buonasera, buonasera. Buonasera a todos. Ciao Gian. Buonasera Gianni. Quelli c'è la giovenuta, si mettono tutti in greppa, perché sono coalizzati. Allora, picchi uno e sei fottuto. Come è successo a Santa Maria di Pisa? Non hai cotto uno, hanno fatto un casino niente, un casino ne l'hanno fatto. Già, comunque non ce l'ho il numero di quello della persona che mi ha chiesto, te l'ho risposto anche, non ce l'ho. Sì, ho visto, grazie, lo stesso, non c'è problema. Vabbè. Domani me lo ordino nuovo. Che cosa? L'alimentation, lo ordino uguale a quello che c'ho avuto. A cosa ci ha fatto alimentato? Non ho capito. Praticamente quando lo metti di dare a 300 watt, fa tro, poi si spegne ogni tanto quando stai parlando. Hai controllato i condensatori, tutto l'ambulatorio, l'hai controllato? Non ho controllato nulla, non me ne intendo, non lo so. Lo volevo portare da qualcuno che se ne intendeva, ma vabbè. Andare, non c'è problema, me lo compro nuovo. Se vuoi che sono i cinciulli già funzionano a stessi, pure c'è una fattazione, lo bui, non si vede niente. No, che lo voglio con gli strumenti grandi, perché sopra nel primo piano io c'ho il rosso metro fatto, metto con gli strumenti grandi, si abbina bene, tutto grande. Vabbè, io ho tutta una un modo di vedere le cose, dai, che ognuno ha il suo, no? A te piace in un modo, a me piace in un altro, e se non ce l'ho come voglio io non mi piace. Cioè se ce l'ho l'alimentatore, mi dà 35. Lo passo. Adesso va bene, l'ho attaccato e va benissimo, però tu, non mi piace l'alimentatore, c'è uno strumento solo, anche se segna sia il watt che i volts. C'è un tasto che tu lo sposti, watt e volts, e te ne segna tutti e due, ma non mi piace, non mi piace, pulino, non mi piace, non mi dà soddisfazione. A me guarda, se avessi potuto che non faccio dopo, se no proprio l'alimentatore da via Borsi li avrei messi in un posto dove non si vedono neanche, non mi interessa. A me perché si vede la radio, poi l'alimentatore non me frega niente, ho un modo di vedere diverso. Non è così a tu, ma è bello l'alimentatore grosso, con gli strumenti, tutto gatto, due strumenti. E poi ognuno deve vedere, non lo so, le cose. Wow, non mi interessa. media potenza a me è a posto, mi girerebbe se non per potenza in onde. Allora comincia a diventare strano, ma e che pompa non mi interessa. Tu sei come ti dice di dirti, basta che sia femmina, se è ferro che non cucina in faccia, non avrei, così sei tu. Adesso è buona la gazzarella, è buona. No? Non si dice così già, basta che ripidia. Vabbè, io la vedo in questa maniera, lui, dopo sarò fissato io, non lo so. No, io la vedo in una maniera un po' particolare, capito già? Non mi interessa. Ora il metanore, per me, più è fuori dalle yo-yos, è meno fatidicia di rientri di alternate. No, ma non me ne dà rientri di alternate, questo qui è perché c'è qualche problema adesso, se no andava bene. Se ho pilotato 140 con quello lì. Ah, capa. Non lo so. Ma che tu ginesi un mare che pompia, sembra che pompi bene. E che baracchino c'hai adesso tu? Ho già, Luca. Tu che stavo in pigiama, dimmi. Gli anni non vuoi più. E che sei addormito. Ho già, io so che ho, dimmi. Io finita nella rete, cosa ci devi fare? Finita nella rete, cosa ci devi fare? Allora, poi attacca chi su coso quei buccioni, allora ci divertiamo. E poi tocca a sopra monolati, antocca. Basta di fare, basta di fare chi è. Grappa. Ehi, piano piano ci posso arrivare anche io a pigliare che giocattolino del genere. Solo che giù paura si sa mai che il suo capo dici si fa danno di muccio. Ma tipo ciunghia. Guarda, quello grande che c'ho io, poi potete cambiarti capo, piele, tutto. L'antenna magari già va bene, ma ti fa l'impianto nuovo per usare quello che non è un giocattolo così. Tanto mi su un giocattolo, che tu già mi giocattolo. È un amplificatore allo stato solido, si chiamano così, allo stato solido, ok? Che è della RM Italy, ed è un kilowatt, capito? Un HF quello, non è un giocattolino, è un 0,30, io lo uso anche in 27 così, giusto per farlo andare, ma non è un giocattolino, costa 650 euro quel giocattolino che tu stai chiamando. Vabbè, quando diventerò ricco me lo compareggio. Non è questo diventare ricco, io te lo compro anche domani, non è un problema, non è un giocattolino. È un lignare professionale che usano tantissime radiomatture allo stato solido, perché oramai le valvole, chi ce l'ha, ce li ha, chi non ce li ha, usano quelli, però quello è un LA1000, non è un giocattolino. Quello con 5 watt in ingresso in un baracchino alla seconda potenza da 250 watt, quasi 300, non è un giocattolino. Ne ha 5 di marce, quindi in banda laterale siamo intorno ai 1850-900. Io lo chiamo così per modo di dire, capito? Ma già lo so che non è un giocattolino, lo chiamo così. Il giocattolino già ce l'ho, che è il B300 della ZG, dice un giocattolino. Ma quello è una cosa professionale, perché io l'ho preso per attaccare gli HF e poi invece non mi interessa più gli HF, quindi me lo sono tenuto, ma posso giocare con quello lì perché è veramente eccezionale. Non, la radio rimane stabile, è una cosa professionale, ho capito. Va bene, noi stiamo guardando la partita, c'è Milan Torino sul Rai 1, non so se è Champions, se forse Coppa Italia, boh, non lo so. Sto guardando la partita, sono qua comunque. Ciappa, c'è problema, va. Ti hai collegato il telefono? No, è Rai 1, è Rai 1, tu. È in chiaro, è Rai 1. Ciappa, va bene. E qualche partita già la danno in chiaro. Rigore? Cosa? Rigore ti hanno dato? No, non credo. Punizione fuori aria. Cappagato. Ma sembrava il rigore. Poi via. Ci mancava la partita, insomma. i mondiali quando iniziano, Cla? 2022? Prossimo anno. Sai che sta che cosa di buono? Cosa? Che l'Italia è prima nel girone e nei mondiali. Allora, sicuramente fanno giocare anche a Ronaldo. Ronaldo gioca a Grupo Portogallo, però. Ah, è vero. Può giocare a Nazionale. Ognuno ritorna a casa sua ai mondiali. Tutti gli stranieri che giocano in Italia sono contro l'Italia. Tutti, compreso Lukaku, giocherà contro l'Italia. Tutti i giocatori stranieri sono tutti contro l'Italia. Ognuno gioca con la sua nazionale, capito? Poi non ho capito una cosa, la mia ignoranza, dico. Perché i giocatori italiani andiamo a giocare nella squadra italiana, appunto, non prendere stranieri. Io non so perché fanno questo miscuglio. È un business, quelli italiani vanno a giocare nelle squadre straniere, ce ne sono tanti. E quelli stranieri vengono a giocare in Italia, perché c'è un gioco diverso, sono più. Giocano meglio rispetto a una preparazione tecnica diversa, capito? Vabbè, comunque, ce ne sono tanti che giocano fuori all'estero e adesso al prossimo anno rientrano per allenarci con la nazionale italiana, sono convocati con la nazionale. Prendi Verratti gioca con la, non so se con la Real Madrid o col Barcellona, eppure convocato nazionale italiana. Speriamo bene, dai, il prossimo anno facciamo bene i mondiali. Gianni, già Matto, le conosci gente usci a porco? Cosa? Gente usci a porco, le conosci? Usci a porco? No, io conoscevo uno scottecchino. Usci a porco, ma cosa usci a porco? Sai cosa va dello scottecchino? È quello che ammazza il maiale, li divide in due e li prepara. Che è un sciabocco? Uno sciabocco. A bizzeffa. Un bel fiagone mi sono in giro. Vabbè. Esce che piglio l'altro, va. Che aveva messo in gocco un poveretto misraglio. Mamma mia, se no vizio è un casino. Già, ti stavo dicendo, ma tu cosa c'è, che baracchino c'è adesso? Garage. Ah, cappa. Cosa segna? 9.30? Cosa segna di segnale? 9.30 il segnale mio. Un po' di meno. Un po' di meno, ma che secco. 9.25, sì. Non è secco, io quando c'è 9.30 dico 9.30. Se no ti lo posso vedere. Che sant'enna, è secca, Ma non è così. Ti dà giusti i segnali quest'antenna. Vuoi arrivare, tutti 9.30 vuoi arrivare. Sì, hai 9.30, non ti preoccupare. Cosa già? Vorreste rubi forse Antonio? Ehi, l'ho battato. Ti mangio schiatta. Lasciami perdere. Ho detto lui, ma c'è a posto lei quel... No, allora, praticamente per quanto riguarda la spia, adesso non si sa se dipende dall'alimentatore, se dipende dall'altra scheda, se è un problema di software. Poi stamattina ho chiamato a Gavino, il cognato di Massimiliano, che mi ha detto quei televisori lì hanno il problema del software. Ecco, io dico, come cazzo fa a giornare se non accende? Un casino, un canale, lo chiudo e lo porto giù, non lo butto. Poi vediamo mai più in là se riesco a trovare le schede. Ma da qualche televisore che si spacca il display e mi compro le schede. Va bene. Oia. Avanti Gianni, avanti. Questo quanto arriva a muro, c'è già. Io arrivo 9.30. Tu 9.40. Io 9.40 con solo la bottetta della radio, ma non ho più smitto. Io con 20 watt arrivo a 9.40, però sopra il BB, praticamente a fondo scala. Certa collineare l'ho già fatta la prova, gli arrivo saturo. Ma perché tu sei in alto. c'era di fronte Muros. Cazzo, sono molto più giù. Vabbè, comunque. L'interessante è che mi abbia detto che non satura la radio, vuol dire che è lontano, vabbè. Qua. Ah, buon sdraio. Se te l'ho detto già che non satura, va bene. No, adesso era al massimo la radio. Era la potenza del coso, del baracchino era al massimo. Solo che in vicinanza satura, adesso so come regolarmi, no? Quando in vicinanza abbasso e quando è lontananza alzo. Io te l'ho detto che così, lo puoi usare a massima potenza, vorrò sempre propagazione con gente di fuori, lontano da Sassari, ma quando sei dentro Sassari devi cercare di dare una regolazione minima, capito? Ah, ma Sassari non è tratto di manco, ma stavo usando questi giorni per vedere come andava e farle e rendermi conto come lo dovevo usare, per sapere più o meno come dovevo usarlo. Adesso sono tutte le cose che le ho memorizzate. Eccomi qua! Tutti qua! Cazzo, d'ora ve ne le battate, Giacomo? Cazzo, andiamo già, buonanotte, ti rimane, c'è i nocchi! Cosa? Ti rimane, la buonanotte, sei qua! No, non hai capito, adesso... Mi sono sdraiato, sto utilizzando l'altro apparecchio, poca potenza. Oh, ieri notte, lo sai che sono un po' di acqua io... Ieri notte con Gianni Capeldue ci ho parlato tranquillamente, con pochi watt, con questo apparecchio, non è che stavo spingendo questa cosa, arrivavo a 8, era perfetto. Ma fa qua, ha detto Gianni, basta che mi sentite, voglio di una futtica, non è attaccato. Io ho due postazioni, c'ho baracchini e poi c'ho queste qua. Adesso sto guardando la partita, mi sono girato sull'altra base e sto usando il 140, capito? Però il 140 questo c'ha 10 watt di portante e 20 modulati. Non le aumento mai le radio, anche se questa è una bella bestia, questa 100 watt pieni ce li ha. Quindi no, ma non mi interessa, lo lascio sempre a 10 watt, massimo 20. Va bene, e così è già, va bene così. Domani me lo ordino l'alimentatore, l'ho trovato su Amazon, 103 euro, gli altri lo vogliono 170, lo stesso alimentatore, solo che ha marcato Sadetta, uguale al mio. Ma è cosa di una futti della marca, cosa di una futti della marca, ma va bene. Prendere uguale, io ho pagato così 5 anni fa già 170 euro, bravo, ordinato Vittorio Giove, non ho problemi a dirlo, capito? Devo ordinare roba e me l'ha ordinato lui e me l'ha fatto, non so, uno sconto, comunque me l'ha venuto quella cifra lì, capito? Costa un sacco di soldi quella alimentatore che ci abbiamo noi, quindi quello lì 103 euro un affare nuovo, cosa di una frutta della marca, l'importante è che sia buono, che sia quello. Questo è buono, fa anche altre cose. Sì, ma sono tutte marche uguali, capito? No? È come la Nissei, è marcata Nissei, ma è Daiwa, capito? Quindi non c'è problema, quindi lo prendo tranquillo, almeno ti risolvi il problema, come ti ha detto Fabrizio già. E l'altro me lo tengo come ricatto. Esatto, se non fai quel lavoro che hai detto, mi smonti tutto, ti tieni il case e dentro ci butti un di quelli cinesi da 50 ampere e c'è un alimentatore buono di scorta. Come ti ha detto, però che non è così facile, ci vogliono schede, ma sono cose. Vabbè, almeno per camuffare, dai, è interessante che funzioni l'accensione, il tasto c'è, l'accensione e da voi se gli strumenti funzionano, lo strumento ha detto Marco che basta attaccare i fili di 12 volt all'alimentazione e funziona, e funziona. L'unica cosa che non funziona è l'amperometro, ma che modello è? Il mio? Beh. 60-55. Ma già va bene cosa? È perfetto, Come quello che ho io, il 60-55 della Proxel, vanno molto bene. Poi l'amperometro ha un'altra funzione già, devi andare sul circuito stampato, eccetera, eccetera. Ma il volmetro te lo puoi collegare tranquillamente al coso lì quando lo accendi, all'alimentazione dell'accensione, ti dai il volsi, capito? Va bene, ottimo per la truppa. niente già, il telecino lo compri senza smontarlo. Se ci sta dentro, lo metti dentro, lo metti due vitine per stare fermo, capito? Del nastro bioresivo nel piano dell'alimentatore e usi il tocchese con l'alimentatore però all'interno. E adesso vedo, se si può aggiustare quello, lo aggiusto, lo prendo lo stesso, quello lì. Quello che mi sta facendo Luca lo prendo lo stesso perché mi può servire per fare prove, perché già lo sai che c'è la camera da letto, se devo provare un microfono devo attaccare un apparecchio, devo usare bene, dovrete prendere il saldatore, portarlo in camera da letto, fare casino, allora è meglio avere un alimentatore, provarlo sul tavolo, lo provo lì e poi quando l'ho provato ce l'ho portato dentro. È buono, dici Ginciulli. Sì. Gare. Io non c'ho uno di quelli già. Non è che posso stare spostando il boxer. Io gli alimentatori ce l'ho sotto. Sono fissati sotto perché sennò fanno rumore, vento, e controvento, io non ne voglio gasici. Quindi c'ho una base solo per gli alimentatori. E quello ce l'ho proprio di scorta come stai dicendo tu per fare le prove. Capito? Però funziona molto bene, c'ha 50 ampere e funziona benissimo. Io ho un ripiano libero, bisogna riempirlo. Che vuoi entrare avanti? Sì, lo più forte. Allora, ciao Massimiliano. Allora, qua c'è il giavà digitale, questo qua. 150 euro più 11 alla volta di spese. Quello che c'è su Amazon. Ma è Proxer, no? No, non è Proxer, te l'ho detto, è Sadelta, uguale, identico, ma marcato Sadelta. Ciao Massimiliano, ma alla fin fine compri la marca, mi capito? Ho detto il Nissei, è Daiwa, però è marcato Nissei e costa la metà, vero Massimiliano? È vero sì, dai, buonasera a tutti. Claro, io controllo, ho messo il microfono per il volante, questa radio. In quella che mi ha mandato la foto? Sì, a positivo, guarda un po' se va bene. Ottimo per la truppa. Va bene, va bene. Ascolto, questa è la radio che non mi sentivi ieri, mi senti oggi? Sì, ma è brutta Massimiliano, è bruttissima. Allora aspetta. Già, comunque non c'è, l'ho scritto, alimentatore Sadelta 6055, non mi dà questo digitale. E io già l'ho provato. Aspetta. Perché allora non è 6055 quello come si dice Sadelta, un'altra sigla, capito? È uguale a 6055, però c'è un'altra sigla. 198 qua, eccolo qua. Allora, c'è il Sadelta SPS 5055 e costa 198, poi c'è Sadelta SPS 3055, 100 euro costa. Gianni, stai attento che 30 ampere è quello però, cazzo, stai attento Gianni che il 3055 è 30 ampere, non è 50, No, claro, regolabile, 10 ampere, mi fitti in occhi. 16 volte, solo un attimino che controllo. È 30 ampere, è 30 ampere, il 30, 55 è 30 ampere, il 50, il 55, 60 è 50 ampere. Allora, qua c'è scritto, BLC Sadelta 50-55, alimentatore 220, aspetta, allora, regolazione tensione da 10 a 15 volt, 50 ampere clare. Cazzo Lu, quello da quanto? Da 190 euro. Allora, aspetta, quello da 190 euro, sì. Oh, lui sta prendendo quello da 103 euro ed è 30 ampere, il 30-55, quello da 100 euro, è 30 ampere. Ah, che io ti vedi che sono ginesio, te ne cuore il retto lucchese, 25 euro, così a posto. Ma che, non cazzo non mi pur, 100 euro ci possono spendere, ma sono già tanti per un alimentatore. Però stai attento Gianni che il 3055 del Sadelta è 30 ampere, non è 50 ampere, non fai l'errore che poi non ti battiano, Allora è 30-35 ampere. Beh, normale, ci vedi scritto 30-55, cosa vuol dire? Che è 30-35 ampere, mentre 50, il 50, 65, come ti dico, 60, 50-55 50-55 ampere. Ah, gli ho detto, dipende se uno di quelli là si fa la modifica, però piano. Praticamente lo dovrei smontare il tutto, tutto per fare i buchi, per passare il cavo del poi c'è un po' di lavoro, è la verità. Se vuoi, se lo vuoi come il mio, deve mettere il tastino sopra, fare il buco, non è semplice, ecco. Ciao ragazzi, vi saluto, ciao. Ciao, sì, di Pinghi Pong, Amagna, ciao! Amagna, chi non è mangiato ancora? Sono negativo, stavo facendo commissione, là. Ciao, dai, ci aggiorniamo, ciao! Bene fare sulla radio, lui. Sì, Massimiliano, scusa Massimiliano, dai, stavamo controllando questo alimentatore, adesso già ti ascolto. Ma come mai giù ti ascolto Sandiale 1? Cosa mi ascolti? Santiago 1? No, giù, qua si fai. Non lo so io, tutto solo radio qua. Sì, quasi no. Cosa vuoi dire? No, c'era in poche parole questa radio era un bel tempo fermo, non netto, capito? Ed era mezzo inciudata, quindi stasera l'ho attaccata. Adesso che ci è andato bene, adesso no. Sì, adesso si poco fanno, dai. Vabbè Massimiliano, se stai andando ti saluto. Io mi assento per fare la puntura a mamma, dai. Riprendi il clan. Ciao Massimiliano, ci vuoi entrare? Già siamo qua. Aspetta, mi sto guardando la partita. Rai 1, c'è il Milan-Torino. Adesso c'è Coppa Italia. Comunque, dai. Ci aggiorniamo, ok? Su WhatsApp. Sì, è Coppa Italia. Già, dammi in retta. 25 bar, 50 ampere, 28 euro, 25, cinese, tanto il switching che stai prendendo tu hanno la stessa scheda, quindi non è che c'è un mio sai. Andare, ciao. Ciao Massimiliano, non l'ho trovato, sono andato ai cinesi, c'erano 30 ampere al massimo. Ciao Gianni, quello che stai prendendo tu leggi 30-55 da 103 euro, è 30 ampere. Vabbè, sto pagando 170 euro, adesso no. Non c'è problema, lo pago Valutino, non c'è problema. Poi quello cinese me lo prendo lo stesso, me lo tengo come riserva. Allora non devi prendere il 30-55, devi prendere il 50-55. No, io avevo detto che volevo prendere il 60-55, come quello che avevo, però ho trovato questo qua, che pur essendo uguale è diversa marca. Però vabbè, non avevo lottato, non sono andato a lottare le caratteristiche, l'ho visto uguale, quindi ho pensato che fosse uguale al mio. Se prima di ordinarlo naturalmente le avrei guardate, non c'è problema. Guarda, perché c'è scritto quello da 103 euro è 30-55, ed è 30-35 ampere, mentre quello da 198, ok, perché te l'ho detto, che costano così quelli da 60 ampere, è 50-55 ampere, capito? Quindi tu devi prendere quello da 198 euro, non quello da 103. Vabbè, già c'è anche di meno, costa, ce ne sono anche da 170, bisogna fare un giro e basta. Tutto lì. C'è anche uno che lo vende direttamente, te lo manda a casa, lo chiama per telefono e te lo manda. Vabbè, ok, no, io c'ho il Diamond da 50 ampere e il Boxer da 50 ampere, quindi, e poi l'altro, quello 24 che è da 100 ampere addirittura, non voglio alimentatori, poi ne ho due, uno comprato qua a Sassari, che il case è molto piccolo e il lamellare è molto fine, ok, da 30 ampere, poi ne ho uno da 50 ampere, sempre di quelli brutti, tipo cinese, che però ho ordinato su internet da uno che li vende, ok, che me l'ha comprato un radiatore perché mi serviva per delle spedizioni che prima facevamo, ed è molto più grande, molto più robusto, c'ha la spina già pronta con l'interruttore, c'ha il LED verde quando lo accendi, capito, ed è 50 ampere, è quello che lo uso, collego qualsiasi